Ragazzi, bentornati alla cena dei regini! Speciale San Patrizio, e per questo ci siamo vestiti tutti di verde o quasi. Guarda come si mostra lui. Siete pronti a seguirci per la prossima ora? Io sì, perché devo stare qua a mangiare. E allora, www.tibac.it, cliccate la cena dei regini, cena.tibac.it per seguirci. Adesso beccatevi la sigla! All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, la cena dei regini, bentornati, ma soprattutto spazio delle notizie con quello che è successo all'House in questa settimana. Dopo la fine dei lavori stiamo cercando di riprendere l'attività sul territorio, sono andato un po' in giro, ho raccolto un po' di saluti che in sequenza facciamo a Santino, Marco, ciao. Angelo, ciao. Zurru Zundeddu, che ci ha scritto dalla Sardegna, Zurru Zundeddu, Simone e Loredana che festeggia un anno assieme. Beati voi ragazzi, continuate così, ma soprattutto la storia di Valentina, 27 anni, una storia particolare che merita davvero un applauso. Non mollare Valentina, non mollare. Ragazzi, in questa settimana riproviamo ancora i nostri giochi, stiamo perfezionando la nuova versione dell'ARS molto particolare che unirà il gioco di ruolo da tavolo a quello classico con i dadi, vecchio stile per noi nerdacci, e quindi una cosa ancora migliore, e poi sarò in giro a fare i nuovi video, eh? Un video particolare che girerà il web, Panda girerà il web, sta prendendo il braccio, dai, Panda sta prendendo il braccio, ma voi no, quindi www.tibac.it, cliccate la cena dei regini e veniteci a trovare per seguire questa e le altre puntate. C'è la chioccioltibac.it per contattarci adesso. Ragazzi, una settimana insieme, continuateci a seguire dopo questa piccola pausa musicale. Yeah. Ragazzi, la cena dei regini, bentornati al nostro consueto angolo delle notizie, banane. Bravissimo, anche delle banane, ma quali banane, perversi. Ma iniziamo con una notizia molto particolare, il sogno di tutti, tornare dalla morte. Ci riescono ben due gruppi, secondo la BBC che ha fatto questa inchiesta. Durante questa inchiesta sulle mie guarigioni miracolose, la BBC ha fatto questa appunto indagine, ha scoperto due gruppi che si dicono in grado di resuscitare i morti. L'unico problema di questi, diciamo, gruppi pseudo-religiosi è che non trovano dei cadaveri per fare pratica. Che peccato! Ma guarda tu! Ci vorrebbe qualche zombie a disposizione, che purtroppo... Io temo sia che dietro a questa casa i zombie funzionano. Ci vorrebbe, non lo so... scongelare... offriamo Eugenio, gratuitamente. Hai detto che sono due? Il nome della scienza, Eugenio. Ma che hai detto che sono due, giusto? Il nome della morte. Uno e due. E chi è che dovrebbe abbattermi? Abbatte, che parola grossa, guarda tu. Basta. Ragazzi, basta, andiamo avanti, passiamo allo spazio della tecnologia, che qua, parlando di altri mondi, grande dispiacere di Tim Berners-Lee, che è uno degli inventori, quello principale della grande internet, la rete, negli anni 70, 80, 90. Lui ha lanciato un grande monito ai governi di tutto il mondo, perché giustamente dice che ormai dopo lo scandalo Datagate è chiaro che internet stesso ormai è ghettizzato, diciamo, è monopolizzato dai vari governi. E quindi lui ci sono anche questi mercati clandestini. Quindi lui disse: lanciamo una carta globale dei diritti online. Tra l'altro Obama teoricamente ha accettato questa cosa, aprendo la disponibilità alla gestione del web, quindi adesso, pensa tu, la possibilità di avere internet libero, finalmente di nuovo. Libero? Così dicono, vabbè, non stanno sotto idea. Ma poi lui che l'ha inventato dice addirittura: senza internet libero non possiamo avere mai una buona democrazia, una comunità interconnessa, diversità culturale, e poi ha aggiunto anche un buon servizio sanitario. Cioè, se incrocio internet non lo prendo. Questa non l'ho capita. Ma in realtà internet non è una democrazia, è uno statuto a gerarchie. Mm-hmm. Però è abbastanza orizzontale, perché comunque i server sono tutti accesi hanno accesso al web, quindi in generale. All'interno delle varie... No, il problema di internet è che poteva essere una cosa veramente decentralizzata, invece alla fine sono diventati tre o quattro siti che gestiscono tutti i servizi, e quindi anche su questo l'inventore ha un attimo, diciamo, storto il naso, giustamente. Ma per una tecnologia che va un po' alla deriva, poteva essere fantascienza, la fantascienza che si realizza. Tutti avete visto, tutti, il film Robocop, l'avete visto? Robo, che parlava di di Robo, cioè di un poliziotto che comunque diventava una specie di cyborg, eccetera. Sì. Ebbene ragazzi, Robocop esiste. Ed è qua. Robocop esiste. No. C'è solo un problema. Non sei tu, perché è un cane, e lui è un pastore tedesco a cui hanno aggiunto, diciamo, questi componenti diciamo elettronici. Qua non lo dice, perché evidentemente lo stanno già lanciando sul campo, perché servirà per il riconoscimento degli esplosivi. Quindi gli hanno impiantato, cioè gli agganciano queste cose in giro, e pensa, il Robocop è un cane per ora, quindi perché un domani suona meglio. Un cane poliziotto che fa sto lavoro, pensa tu. Beh, alla fine bella vita. È un buon inizio, se una legge può sostituire seriamente parti del corpo delle persone, comunque aiutare in qualche modo. O almeno va a disattivare gli esplosivi, quindi è una cosa comunque positiva. Sì, io dico, è un buon passo avanti. Diciamo che si risparmia sulle operazioni per montare altri meccanici. Santo cielo. Padrone. Ma ragazzi, anche perché prima di questa esce la giusta la scheda, padrone, dammi la cura. Sì, scusa, tieni. Anche perché prima di questa cosa usavano proprio i veri e propri robot. Quindi è un attimo a mettere il cane così. Hai ragione. Non distruggiamo una cosa di latte, ma una dieta sulla vita canina. Ma andiamo. Tipo, no, il robottino ci costa. Il robottino ci costa un sacco, tipo. Fido, vieni con una cosa per te. Povero cane. Ma ragazzi, non siate così tristi. Povero cane. E se siete tristi andate su Facebook, perché è stato scoperto da uno studio recentissimo di questi giorni che la felicità è contagiosa e si trasmette anche via Facebook. Dipende da quelle frasi belle. Guardi anche, ma guardi un post e sei ispirata ad essere più felice, c'è questa cosa. Chi ha scritto questo? Uno studio della rivista Plus One, che è già una rivista che si chiama Plus One. Io leggo la bacheca di Demetrio e mi cadono le palle. Mamma mia, la tristezza della bacheca. Cioè, subisco anch'io questo. Ti giuro, mica ti cago a guardare le immagini che condividi. Ragazzi, una volta. Più delle volte subisco anch'io le lamentele di Facebook, infatti. Nascondi. Ma anch'io ho una persona tra i miei contatti che non fa pubblicare cose tristi, depresse, emo. La tua ragazza? No, dovete pubblicare. Io devo fare una gara. Dovete pubblicare cose positive, così. Solo cose belle. Così. No, contagiano anche perché voglio dire nella Meglio Moreno sì. In One Direction, che ha detto Clips. A posto, hai finito? Sì. Ok. Nella ottica di internet e del web, come vai a condividere una cosa per te importante? Vai a fare il post impegnato, tipo lontani tramonti quest'oggi vedi, è così, e quello ti scrive sopra. Ma per ragazzi, andiamo avanti con un'altra grande invenzione, molti di voi la conoscono, prende le origini dal risciò cinese e dalla nostra lapa, unendo viene l'ecolapa. Cos'è l'ecolapa? È uno strumento, un risciò, questa forma, sì, una con la pedalata assistita. E quindi che fai? Tu hai il tuo risciò, hai la tua attività, però non devi neanche sgobbare come in Estremo Oriente quei ragazzi. È interessante. E sta prendendo tantissimo nell'era delle smart city cosiddette, cioè delle città ecologiche. L'ecolapo potrebbe essere la soluzione del futuro. Si torna indietro, capisci? Tu unisci Cina e Italia, come dire, risotto alla cantonese e pizza. Come dire, la grande muraglia è arrivata fino a qua. Beh, praticamente. Ragazzi, il genio, i maccheroni alla cantonese, le faremo da provare. Ma viva le cose autentiche! A tal proposito, e direggio la notizia di questo simpatico gruppo di parrocchiani della bella parrocchia di Santa Lucia di Reggio Calabria, che va in giro a comunque entrare a casa della gente, suonare, chiedere un'offerta volontaria in denaro in cambio di un calendario. Pensa che bello, questi ragazzi così ispirati che vanno, ma sia così da così tanta fede, ma è un falso, costoro sono degli impostori. Mamma, cioè, capisci? Questi ragazzi venite a Gembione, una bella vita, venite a Gembione. Per me ci cadono tutti quelli del Gembione. Sulla pasta, Serena. Non ho capito. Cioè, questi ragazzi vanno in giro a vendere calendari dicendo di essere la chiesa di Santa Lucia, ma è falso, non sono, cioè sono semplicemente degli speculatori. Come dire, una volta c'era la Folletto. C'erano queste cose. Adesso c'è. Ma vediamo il vantaggioso, cioè il calendario quanto viene? 1-2 euro, intanto ti beccano 2 euro. E poi a chi chiederai scusa? Lo devo fare. E quindi, ma banda, le sessioni di gioco virtuale, che importanza hanno per la società moderna? Cioè questi ragazzi che si mettono lì con loro WoW, con loro LOL e giocano. Dici. Quanto passate online voi a giocare? Allora, metti in due, io 4 ore, 5 ore sicuro. Perché devo livellare il personaggio. Personalmente vado a momenti. C'è una volta in cui veramente sono ossessionato da quella vita. Oppure Neverwinter, Ion, Alliance of Valiant Arms, vari. Io gioco quelle 12 ore al giorno. È ragione. Per 7-8 anni mi trovo piuttosto bene. Assolutamente. Ragazzi, perché è dalla Cina la notizia che un padre ormai, come dire, disperato dalla vita sociale distrutta del ragazzo, ha assoldato un sicario virtuale per sconfiggere il figlio all'interno del gioco e uccidergli il personaggio. C'è un regolamento di conti online nel gioco. Mi rinforzo di più per 4. E lui fa lo stesso. E io inizio a scioppare. Una volta c'era il coppino di legno, invece adesso ingaggi il sicario virtuale. Ma quindi non c'è chiaro il concetto di respawn, sì, ma ogni volta che quel cuore paura lo riammazza. Cioè, mi ricordo un episodio particolare con mio padre, siccome lui era un fan sfegatato di Mortal Kombat, comprò il cabinato di Mortal Kombat 3. Mm-hmm. Io a 4-5 anni mi mettevo a giocare con lo sgabello sotto insieme a lui. Se non che lo distrussi, vinsi 3 o 4 partite di fila senza che mi facesse un solo danno e mi diede una gomitata in faccia così forte da mandarmi al pronto soccorso. Vite. E da allora non ci giocai più a quel campionato. Vedi, ti ha educato, genitore figlio. Devo fare come dire. Tuo padre, quindi, no? Gomitata. Da che lato te l'ha dato? La gomitata e via. Allora io giocavo sulla sinistra, quindi con la destra. Non fatelo, ragazzi. Ma questi ragazzini, questi giovani che si vogliono esporre così è una moda. Altra moda del momento sono le selfie. Selfie, cioè le foto fatte a se stessi, come si suol dire. Un ragazzino l'ha fatta all'interno di un museo a Brera. È la dimostrazione che le selfie distruggono l'arte, come giustamente dite in un giornale, perché si è appoggiata a una statua per farsi la foto e ha distrutto la statua facendo cadere un'intera gamba di questa inestimabile opera custodita all'Accademia delle Belle Arti di Brera. Ma tu vai a farti la foto un attimo, sei là pronto per Instagram e poi track. Preziosissima statua ottocentesca. Ancora non lo so, però sicuramente gli costerà veramente parecchio. Quindi... Ma ultimamente le statue vengono continuamente rovinate. Le opere d'arte sono state come cestino. Il pezzo del muro stuccato dal muratore. Il dipinto di Cristo che è stato completamente devastato. Cioè... La tizia che ha buttato via. Non dimenticare il tappo del costumante. Qual era il tappo del tempo fa in una galleria, non mi ricordo quale pezzo grosso della politica, ha stappato uno spumante contro un arazzo. Perfetto, vedi, l'arte deve sopravvivere al tempo ma anche alle persone moderne. Ragazze, poi bollino rosso, l'angolo un po' delle notizie un po' più piccantelle, più hard, quindi mandate a letto i bambini assolutamente. Ma al tempo stesso, ad esempio, se qualcuno ti disse torna a scuola, sì. Tornare a scuola vi alletta. Sì. No. Sì, vabbè. Sì. A Torino sicuramente sì, in quanto c'è questa insegnante che ha portato le ragazzine a vedere uno spettacolo di Spogliarello. Sì, quindi, cioè, anziché portarla, ha fatto questa come dire, questa vacca, no, la gira, gira, gira, gira. Come si chiama la professoressa? La contare, non lo dice. Lei è la mia scolaretta. Però dice, è una donna bella con fisico slanciato, dice non sapeva, cioè, come organizzare le attività ludiche, ha portato le studentesse a uno spettacolo. No, non c'è la foto, quindi. No, c'è il nome della professoressa. È inutile che ti sbirci, non c'è la foto. No, non lo dice. Le ho occultato il nome, non si fanno queste cose. No, purtroppo non è possibile. Cioè, però pensa, la classe è piena. Tornare a scuola, la cosa che ti dice, vabbò ragazzi, ricreazione, vabbò ragazzi, Spogliarello, vai! Bene! pelle di mamma, cosa hai fatto a scuola? E perché faccio questo? Così, perché non sapeva cosa fare esattamente. E tra l'altro mi ha acceso anche le ragazze dicendo: se lo dite vi boccio. Ah, vengono bocciati. Vengono bocciati, ma soprattutto l'insegnante è una cosa particolare. Ma lo vedi che la scuola italiana funziona? Cioè, non abbiamo i soldi per le lavagne, eccetera. Dico, no, non ci sono i soldi. Ma se andate, le ragazze mandate gli spogliarelli, vuol dire che... Ma forse la gita, magari i genitori avevano anche pagato per mandarli. Sì, dico, esperienza didattica sulla anatomia umana. E il genitore era, caspita, sta studiando alla grande. E poi invece là... a beccarsi lo spogliarello. Ragazzi, c'è una chioccia del back.it, commentate anche queste notizie di questa settimana e noi ci vediamo adesso dopo una piccola pausa musicale. ragazzi, la cena dei regini. Benvenuti nell'angolo della classifica, benvenuti, bentornati, anzi. Parliamo di una classifica molto particolare. Questa è stata la serata all'insegna della birra e quindi la classifica delle 10 bronze impossibili che ti capiteranno nella vita. Impossibili, ma che ti capiteranno. Alla numero 10, l'esperienza di tutti, la sbronza, cioè voglio dire. La sbronza cattiva. La sbronza cattiva è quella che comunque colpisce gli studenti più pacifici, però li fa diventare un pochettino, diciamo, selvaggi, cattivi. La versione Jekyll è proprio Hyde. E quindi quando prende male, diciamo così, la sbronza che ti fa imbestialire. Vi è mai capitato? Non c'è un motivo per cui ti devi arrabbiare. Tu hai appena cavolato in giro, No, quella professoressa in francese mi diceva: vieni a farti la foto, io gli ho detto non mi rompere le vattene, vattene. Beh, bello anche rinverdire. Ma io avevo bevuto, ma... Che differenza c'è da quando sei bevuto e quando sei... È lo stesso. Ma questi sono dettagli, ragazzi. Esatto. Ragazzi, andiamo avanti. La sbronza dei buoni sentimenti, cioè il contrario, cioè quando tu ti sbronzi improvvisamente il mondo è bellissimo, e quindi comunque ti sei obbligato così alla testa e non si sa come, nessuno si è tutti nel mio letto. No, ragazzi. Assolutamente, però comunque è quando prende bene, diciamo, prende bene. Questa è la prima che io arrivo. Io voglio amore verso tutti, amore verso il mondo, verso la vita, tutto quanto. Alleluia. Che bello, che bello. E anche volersi. Poi ti sveglio su Hitler. Sì, certo. La numero 8, okay. La sbronza, diciamo, della monella, tra virgolette, cioè quando soprattutto il genere femminile, diciamo, è molto capitato con la sbronza diventa un po' più trasgressivo, un po' più open mind, diciamo. Non sarebbe mai capitato. Per non dire altro. Monella. Come? Per non dire altro, diciamo. Birra? Siamo sempre delle maliziose che non si deve. Cioè, ma quindi è vero, l'alcol abbassa questa soglia di... Ragazzi, abbassa questa soglia di... Questi freni inibitori, quindi garantiamo che può essere così. Beh, vedi, ragazzi. Alla numero 7, invece, la sbronza molesta. Cioè, quella che comunque ti fa compiere delle imprese impossibili al limite del paranormale. Cioè, ti capita... Poi, raccontarvi tanto di anche io. Comunque, la sbronza molesta è particolare. Ripeti un attimo. La sbronza molesta è quella che ti fa fare cose al limite del possibile. Quindi inseguire i gatti, ad esempio, toccare le donne sperando che abbiano quell'altra cosa. Ricevere fiaffi dalle donne, bestemmiare contro le chiese, spogliarsi e molto altro ancora. Quello che fa andare a mente. Spogliarsi. Non farlo adesso. Perché no? No, non è il caso, vedi, quindi. E poi la numero 6, la sbronza triste. Quando è l'attimo mi sono sbronzato, no. Allora mia famiglia faces. E quindi la sbronza triste. È la più comune, secondo me, questa qua. Secondo me si dividono tra la... Sì, no, ma poi la vedremo più avanti. Ma ancora ce ne sono diverse, ce ne sono diverse. Prima ti arrabbiate e poi triste. Perché l'ho fatto? E poi, ragazzi, la numero 5, la sbronza omosessuale. C'è quella sbronza che comunque ti permette di esplorare, esplorare comunque un'omosessualità che è un po' latente forse, e quindi ne approfitti per concedere. Sono perennemente ubriaco. Quindi, uno stato di ebbrezza esiste, quindi, cioè la sbronza omosessuale esiste. Ah, io non lo so, Andrea. Lo vedo tutti. Secondo me, però a me è capitato di vederlo molto più tra le ragazze, la professione omosessuale. Ma anche perché per i ragazzi. Diverse, sì, perché per i ragazzi è un pochino più difficile pensare a vedere un altro ragazzo e dire. Ma fatti i cazzi d'oro! Che metti a parte? Va bene, andiamo avanti, ragazzi. Se qualcuno di voi si ubriaca, io sono qui per fare i video. Andrea, poi parliamo. Soprattutto. Alla numero 4, pericolosissima, la sbronza intestinale. Cioè quella che, diciamo, ha un attimo di effetti collaterali io con whisky che non mi ubriaco mai, però ne sento gli effetti dopo. Perfetto, buona sapersa. E poi il crollo del Titanic. Il crollo del Titanic, ragazzi, le sbronze, quante cose sono successe durante una sbronza, di tutto, quindi voglio dire. Io ho visto anche persone parlare in altre lingue durante le sbronze, tipo i... Io ho visto persone che mentre la sbronze parlavano in piemontese stretto. Appunto, mi è capitato col francese e con l'inglese un'altra volta, pensavo. Persone che non conoscevano il francese né l'inglese hanno iniziato a parlarlo, quindi... Quindi bisogna servire. Le sbronze erano autori di papele, esplorate tipo... queste cose, scusate, ma... Alla numero 3, è questa fondamentale, soprattutto... in certi ambienti un po' radical chic, la sbronza del poeta maledetto, quello che è sbronzo e quindi ricordi sbocciavano le viole e quanto fa presto amore ad appassionare. Io per questa ragione la odierei a morte, mi darebbe un fastidio assurdo. Ginepro? Ginebrai! Però è produttivo perché comunque... Tanto non ti ricordi niente dopo, quindi perché... Che cazzo ho detto ieri? Quindi uno deve restare sobrio e segnare ecco tutte le... servono i video. Le sparate, ovvio. Vedi, eh? I ma non solo sono quello, fondamentali. Alla numero 2, ragazzi, quella la più distruttiva, quella anche pericolosa, la sbronza proprio da coma etilico. Cioè quella che... Da evitare assolutamente. Da evitare, quando vai oltre le tue capacità comunque fisiche. Ma questo dipende da persona a persona, perché se una persona è così. No, mi è capito di vedere persone messe veramente male. Mm-hmm. Male. E con cui ho anche perso una camicia e una maglia. Non voglio sapere in cosa. Che modo, non voglio sapere. Diciamo che la rocella era addosso a me. Ah, ecco. Okay. Ok. È stata una sì, capita di tutto. Quando ci si riduce male funziona anche così, chiaramente non è da consigliare. Ma se questo è il secondo posto, il primo posto qual è? Ragazzi, il primo posto è la sbronza esplosiva, è la sbronza che ti cambia la vita, è la sbronza dell'innamorato. E la sbronza che quando tu sei innamorato vai da quel ragazzo con cui avevi il filarino, quella cosa così, quella frase dolce, eccetera, e le confessi il tuo amore, ti becchi il 2 di picco. Tre secondi dopo, frentone! Perché se già non ti desideravo. Tu non capisci, tu arrivi da lei, la guardi negli occhi, ti in faccia, ti inginocchi, prendi la mano e le dici. Cioè, con quell'alito che sa di però. Andrea, perché metti stessa scena, ricene, prendi le mani, prendi la tua mano e fai. Quello non era. Vabbè, diciamo che non era proprio il fluido corporeo che volevi regalare. Però no? mi è capito di vedere persone. Cosa che... ridi? Tu cosa ridi? Cosa alla tua età non la devi capire questa cosa? Mi è capito di vedere persone che da ubriache hanno praticamente registrato, praticamente i suoi amici hanno registrato mentre parlava, e questa persona diceva: questa ragazza con cui stava, io me la sposo, è perfetta per me! Ovviamente gli amici hanno registrato e gli hanno fatto sentire. Sì. Cattivo gli amici. Quindi lui si è proposto in matrimonio durante una sbronza. E si è. La ragazza non c'era, però i suoi amici, tanto cattivi, gli hanno registrato. E io no, e ovviamente la ragazza era stata come suoneria per un po' del cellulare. Ragazzi, se non diventate astemi dopo questa classifica, veramente io. Vinta la cellulare. Una cosa incredibile. Poi gente, abbiamo visto durante le feste anche all'house un po' di tutto ogni tanto. Ma quindi la sbronza, guarda, finché non era come etilico, secondo me ogni tipo di sbronza è finché è la vuoi raccontare era divertente. È bella, è divertente o per te o per gli altri. Ok, tipo, mi capisci, vedere persone che barcollando dicevano cose assurde, tipo parlavano in maniera strana. E con cui io potevo prendere anche in giro successivamente. Ginepro? Persone che durante la sbronza urlavano, oppure di tutto. Piangevano, rotolavano per terra con... Ridevano. Con un sacchio di vomito in testa. Ragazzi, le vostre esperienze personali lasciatele nell'oblio. Ma siamo fuori onda? Ma no. Poi no. Vabbè. Allora, ma tutto d'accato, non capite quando... cosa mi perdete. No, perché non capiscono cosa c'è tra una registrazione e l'altra. Cioè, lo questa è la cosa. Capisco. E lo questo spettacolo. È il problema della cena. Però perché noi arriveremo. Perché questa è un'ora, ma mentre noi siamo qua a cenare. Ne diciamo tante, ne vediamo tante. Che è peggio, quindi dovete seguirci. Anzi, dovete scrivere a cena@back.it per essere ospiti anche voi, perché cena è aperta a tutti. Assolutamente. Perché privarsene, cioè voglio dire, perché privarsene. Comunque, secondo me, la sbronza essenzialmente, se entra bene, è la sbronza dell'innamorato, comunque quella là positiva. Quell'innamorato non la consiglio. Tutta. Se entra male, è quella del cattivo, cioè quella... Quella cattiva è la peggiore, ma c'è anche quella triste che è proprio assurdo. Io direi che la stronza ideale è quella in cui sei brilla, comunque sei dentro certi. No, sei brilla. Allegretta, allegretta. No, meglio essere brilli che sbronza. Brilla, allegretta. Allegretto andare. Anche un filarino nel frattempo. Perché ancora ti ricordi le cose da brillo. Certo, e quindi puoi anche... Ed è ubriaco il problema. Ragazzi, le sbronze peggiori. Mi lascerei, iniziamo i drinking game. Direi di sì. Ragazzi, le sbronze peggiori finisco all'ospedale, quelle migliori su YouPorn. Quindi voglio dire, basta calibrare le cose, basta stare sempre attenti al massimo possibile. Noi torniamo dopo una piccola pausa musicale. www.back.it, seguite la cena dei regini. I can't see why there's no forgiveness. Ragazzi, questa era la cena delle regine. Anche questa settimana ce ne torniamo a casa. È stato fantastico, abbiamo mangiato tantissimo, abbiamo bevuto altrettanto. Quindi cosa meglio di questa cena, voglio dire. Niente. E del resto abbiamo registrato anche l'unica trasmissione regina del pianeta Terra. Quindi voglio dire, continuateci a seguire www.back.it per guardare tutte le puntate e seguire anche questa. Ragazzi, ci vediamo la settimana prossima. Un saluto da Bacca e da tutti i ragazzi della cena dei regini. Ciao, applaudiamo.